guess I'll be mad at your work. A lot of noise in there now. Yeah, there's a lot of confusion on this whole video. You hate somebody, you hate them. Yeah, you don't. Whatever you want to do, you do. You know, everybody knows you. So, we all know that. Because I put more out here, people do what they do. I ain't the way I am. I guess this old CB makes quit crying, Bob. Yeah, I guess Hoggy, he made it to work. Hell, it's 9 o'clock on I know Cosmo ain't got no use for taking them things. Yeah, I told that on the radio, right? I got that talk about it because they talk about 45 hours. Come on, come on. Ain't gonna go take it up the ass, brother. But I'm gonna get a big long video. I hear that. A lot of people that way. Sure is. I can talk about it. Nobody knows. You got me? Call to kill it now. Cambio, cambio. Ci CQ canale 10 per prof apparato. Yeah, avanti, buonasera. Sì, buonasera Gianfranco. Sto provando un'antenna, se va tutto bene, perché c'è stata una mezza tromba d'aria qua e volevo vedere un po' se era tutto in ordine. Ciao Gianfranco, buonasera, a questa parte Gianfranco lo stesso. 59 più 5 del tuo rapporto di segnale. Sassa, riconfermi? App di positivo, donna modulazione, manca rosello alto. Ah, ok, allora siamo in ottica praticamente. Va benissimo, tu arrivi più o meno lo stesso, qua su questo indicatore che non è scelto il meglio. Ti ringrazio, buona serata, alle prossime continuo a fare le prove un po' dappertutto. Ciao Gianfranco, buona serata anche a te, dai, ben ascoltato per la primiera. Ok. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, hola, vamos a ver si vas escuchando la Italia que va llamando de antes. Hola, Sica, hola, Sica. Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Hola! Ok, allora, non c'è nessuno, cambio. Come vai in questa triste serata, ventosa, piovosa, di notte, freddo, di tutto oggi, non ci siamo fatti mancare niente, non c'è nessuno? Siete tutti rinchiusi in casa? Non avete voglia di parlare? Apa? Sasha, che fa un po' di compagnia almeno. Come? Buonasera. Eugenio, lasciala, buonasera. Ho abbassato il volume. Mi sta dicendo? Non male sta uscendo Eugenio. Sì, sì, è che avevo il volume alto, non avevo capito. Buonasera. Ah, io ti ho chiesto se sto uscendo male io. No, sta bene, ti va benissimo. Beh, allora lascia la musica, così almeno abbiamo compagnia. Non verrai in su. Vabbè. So che ti ascolto, io non voglio parlare. Per accenderlo non parlare. Se li vieni straginare di nata urbana e guarda la televisione. Io veramente ce l'avevo acceso e stavo ascoltando la tua musica perché ero PC, sino a che poi sono entrato. E allora ti lo giro, hai lavorato? No, ho chiamato per dire la verità da ieri notte, ho detto, ma il caso che vedo che sta piovendo neanche ci scendo a porto torre. Ma sei ancora a casa al lavoro? No, vabbè, noi la sede ce l'abbiamo lì all'incrocio dei due mari, Ah, ho capito. E quindi scendere e poi tornare a casa non mi sembrava il caso di consumare un po' di gasolio per niente. Io oggi niente. Oggi di guardia, ma non si batte il chiodo perché le navi non sono entrate. Non sono neanche partite da Genova. Tanto c'era da poco la maestranata che c'era. Oggi fammi un controllo che tu sei più lontano di tutti, aspetta che faccio una cosa un attimino. Allora, vediamo se riesco a fare. Aspetta un attimino. Ora sta cambiando. Se così cambia segnale, così, questo è il primo passaggio. Aspetta un attimino, questo è il secondo, A voglia sali bassetto normale e poi quando attacchi arrivi a 9 tranquillamente, poi vado moduli e sali ancora di più. Aspetta, così com'è? Guarda così, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora così sei a 7, poi moduli e arrivi 7 e mezzo. Ok? Bene, io così vabbè, non ho niente attaccato, sto cercando di capire una cosa. Mentre invece così? Poi adesso arrivi fino a 9. Non riesco a capire, c'è questo accordatore che non riesco a capirlo. Vabbè, così a 9 mi hai detto? Sì, così c'è a 9. Aspetta un attimo. Non riesco a capire la cacchio è. Allora. Vediamo se. No. È cambiato una cosa così invece, guarda, 1, 2, 3. Provvigia. Guarda se va bene ora, Eugenio. Ha cambiato qualcosa? Ehi, un attimino con la prova. No, è sempre perfetto, sempre a 7. La radio è sempre perfetta. Avanti, chi sta dicendo prova? Scusate, lui. Ascolta a me, Eugenio. Così a 7, non mi interessa. Così a 7. No, così a 9. Sei tutto saturo, facciamo fatica a capirti. No, sei a 9. Vedi. Bene. Non riesco a capire questo accordatore, non so che non lo tolgo di nuovo. Adesso magari stai uscendo meglio, chi sei? Allora non ce l'avevo. Se sei maggiore, prova, vai tutto saturo. E ho capito, va bene. Buonasera, ma chi sei? Sì, ma sei tutto saturo, facciamo fatica a capirti, capito? Non per niente, per sapere almeno con chi stiamo parlando. Anche perché è acceso la sera quando a Santiago. No, qua arriva Santiago 4, ma sta calinare non ho sempre più. Sì, vabbè, ma poco mi interessa. Ma ho dato un accordatore Claudio, però sinceramente non riesco a metterci la mano addosso perché ha tanti tastini e devo riuscire a capire cosa. Come pilotarlo, vai. Infatti se non c'è qualcuno dall'altra parte che mi dice se ha cambiato il segnale o meno, vediamo. Così mi insegna che torna orale, però. Sì, sono modulati, diciamo che sono 7.5. 7.5 solo? Adesso sì, prova con la portante bianca un attimo. Guarda un po'. Ma adesso hanno, ma sei sicuro che cioè, non ci sia qualcosa che stia facendo massa? Perché sale e scende il segnale. Dammi un secondo, dai, che stacco tutto. Forse è meglio, va. Avanti l'amico che sta staccando il lineare. Con la modulazione fa sempre schifo, però ti ascolto e riesco a capirti, dai. Meglio di prima. Mi stai dicendo chi sei? Franco? Ah, Franco da Sorso. Buonasera. Prova a staccare. Sembra che fai un patato in bocca. Adesso è più chiara, però è molto più bassa. Ah, cacciare Falconero da Sorso, ho capito. Buonasera. Ah, si è dicendo uno schifo, non riuscivamo a capirti. Ciao amico mio di Fondotoves. Dimmi. Luigi, guarda se ha cambiato così. Ciao Luigi. Guarda un attimino. Una, uno, due, tre, prova una patata. Tutti, adesso sei tu, cioè il tuo segnale a 7, la radio Super 5, perfetta. Ciao Luca, l'amico mio di Sassari, sei in compagnia mia e di Tino e di Falconero da Sorso, non so se lo senti. No, no, non sei da Falconero, lo dico sì. Beh, sei da a te, ti ascolto bene, a Falconero niente, non arriva qua. Io ce n'ho. È vero Daniello, meglio sai. Però piano, sì. Faccio un appuntamento con l'ottorino Arigoiatra, che è 24. Aspetta, guardalo bene il segnale. Ora, ora. A 7 mi sembra strano, mica attacco l'altro. Blocca la maglia, aspetta. Sei a 9 e poi come fischiato sei sceso a 7. Mica c'è qualcosa che non va. Appunto, aspetta. Ora, ecco, guarda un po'. Ora, ora. Guarda i picchi in positivo se sono. Ora. Ora sei tu, Santiago 7, un segnale 7 e poi come parli c'hai picchi positivi fino a 8. Ma poco fa come hai fischiato, eri a 9 fisso, come fischiato sei sceso a 7. Ah ecco, no vabbè già va bene ora così. Già va bene, già va bene. Chi era Poccante? Franco da Sorso, Franco che Franco? Franco Nero sono quasi. Falco Nero da Sorso, cambio. Ciao Fra, sei Saturino, per quello non ho. Anzi quando sei entrato eri incomprensibile, per dire la verità, quindi non capivamo chi era. Sì, ha piovuto, niente di che, ma oggi ce l'ho lasciata così. È più bassa però è comprensibilissima, non è tanto amplificata, non è fortissima, però si capisce bene. Adesso addirittura te ne sei andato in radio, proprio non sono riuscito a capire il discorso che stavi facendo. Il segnale ce l'hai, è 8, quasi 9, però non c'è radio. Okay. Brutto, buonasera a tutti, vediamo un po' che fa. Adesso eri a bomba, adesso andava bene la radio. Va bene, Flora, d'accordo, ci sentiamo. E poi Luca, ogni tanto sparisce. Andava bene. Luca è un fantasma, fammi come un sassari. attimino se, se cambia qualcosa, così dai. Vediamo, vediamo se si addrizzano le antenne qua, che non posso senza usarlo. Vabbè dai, deve scaldare per appena. Se cambia qualcosa, a fondo scala io. Addirittura, no, fondo scalo. La radio molto cambia? No, la radio è perfetta come sempre. E a quasi a 3, a 20 arrivi, Andare, andare. E vabbè, già sta iniziando a andare, l'ho acceso così, a vedere. Adesso mette poco a scaldare questo, eh. E se adesso lo facciamo salire un po'. Sto dicendo che qua arrivi a segnali di 20 e la radio è perfetta. No, sono contento di dire che ho fatto un bel allineamento, diciamo, non distorce, non fa, è un apparato insomma, un po' discreto perché ha i suoi canali, non prende splatter, insomma, non è grande come quello che abbiamo noi, è un pochino più grande di un veicolo normale, però va bene. No, va benissimo, c'è anche una bella, la radio è bellissima, una bella discrezza, una bella potenza, come le chiamo io, ignoranti, da quelle radio belle e potenti. Quella è la battaglia, dai. Esattamente. Ma dimmi una cosa, ma poi hanno finito lì dove siete voi, dove ero io praticamente, hanno concluso. Oh, e cosa hanno fatto? Ah. Se non li ho più visti, ma collaborarci lì dentro. Non ho più fatto niente, non li ho più visti, capito? Che strano, che... Tanta fretta che avevano, per cui... Ma sono quei... come si chiamano? Quegli appalti fantasma, secondo me. Capito? Noi stiamo aspettando che li finiscano perché quel posto ci serve come il pane, ma a finirlo chissà in quale anno, non lo vedremo mai finito con la specie di stazione marittima, capite? Ma chissà da quant'è che non vedo nessuno lavorarci dentro, sarà per il tempo, non so, boh. Però è fermo già da un bel po'. No, io non credo che sia un'impresa fantasma perché la conosco, l'impresa è abbastanza grande anche. Ci lavora il geometra, un amico mio, e per giunta qualche operaio anche c'è che conosco, di Sassari, che ci lavora. Lui ci lavora già 23 anni con quella ditta, quindi non è una ditta fantasma, capito? Magari hanno altre priorità e quella l'hanno presa per tappare qualche buco, non so come sono i termini lavorativi, cioè non so se gli hanno dato un termine per finire il tutto e quindi magari sta facendo un colo, non so, voglio dire. No, la ditta è buona, la ditta è la IEM, quindi una ditta abbastanza conosciuta anche. Ah, allora ce la stanno prendendo con comodo perché magari sono avanti con i lavori, è possibile. Sono avanti con i lavori e ce la stanno prendendo con comodo. Capito? Però è da un po' che non ci lavora. Infatti anche l'altro giorno con il mio collega stavamo commentando, ma quando finiscono che ci serve? Quel gabbiotto, chiamiamolo gabbiotto, quella mini stazione marittima ci serve, sono i bagni belli, capito? A noi ci serve tantissimo, però sono fermi, non lo so, non riusciamo a capire, magari come hai detto tu sono avanti con i lavori e se la stanno prendendo con comodo, o hanno altre priorità, non lo so. Quella è comoda perché poi non so tutta dove dove appoggiati, non ti serve, quindi ci vuole. Ma è molto comoda, lì hai visto, ci sono entrato, ci sono i bagni, insomma uno dove entra in bagno ce l'ha lì, va bene. Sì, sono entrato, ho visto, sì, e ti ripeto, è comodo anche perché magari uno, che ne so, se la vuole fare lì la luce, se la fa lì, non c'è bisogno di aspettare l'ultimo minuto, diciamo, va bene. Poi quella, se non sbaglio, dovrebbe essere anche una sala tipo fare riunioni anche, no? C'è il bagno, entri, via. Forse sono sovravvalutati. Ti volevo dire, quella sicuramente è anche una sala per fare riunioni, giusto? No, è una sala che ha voluto la Grimaldi. Capito, ha voluto la Grimaldi e niente. Siccome ha vinto una causa, allora gli hanno fatto questa amministrazione marittima. Bene. No, vabbè, poi anche per il personale penso che possa venirne utile, no? Il personale vuole farlo con voi, se dovete andare adesso in bagno, lo trovate lì. Sì, è quello che sto dicendo. A me ci serve come il pane quella cosa lì. Ma l'altra volta ho visto quando si è attaccata la nave che avevate scaricato, ho visto dei marinai, dai, quelli che fanno assistenza alla nave, che la stavano verniciando all'interno. È una normale manutenzione? Sì. Normale amministrazione. E praticamente la tenuta bene della nave, dai, diciamo, la manutenzione ordinaria della nave, la titolazione, quello per i marinai ordinari. Ah, bene. Cioè, non penso che lo facciano ogni qualvolta si fermano al porto, e così quando ci vuole lo fanno. Sì, quello quando ci vuole, quando il nostro uomo vede che la nave necessita di una pitturata, c'è la prima guardia, diciamo, la prima guardia, no, bugia, il turno giornaliero, la guardia giornaliera, e fa questi lavori. E poi ci sono le guardie, prima, seconda e terza guardia, che quel lavoro non li fa. Ah, ecco, sono segnati a determinate persone, diciamo. Vabbè, certo, chi fa la terza guardia, che lavora dalle 6 del pomeriggio a mezzanotte, no, non può farlo, deve riposare, capito? Oppure chi fa da mezzanotte alle 6 non può farlo. Certo. E un orario come quando ero militare io, non ricordo, diciamo che facevo dalle 2 del mattino alle 4, praticamente l'indomani no, non facevo niente, perché solitamente facevo 2 ore di guardia e 4 di riposo, no? Però quando ti toccavo quell'orario lì che facevi dalle 2 alle 4 non facevi altro di tutto il giorno, cioè facevi 4 ore di guardia, però non facevi altro. Tu pensa alla terza guardia che fa da mezzanotte alle 6 del mattino a guardare il niente, guardare il buio, neanche il mare, il buio, perché sei in console, no? Capiterà, in quanti sono? Da solo, come quanti sono? Ah, è l'unico, io pensavo che erano in due almeno, quando facevamo la guardia lì, quindi da solo. E allora, mettere l'occhio, la bussola, se c'è qualche problema chiamare il primo ufficiale chiamerà il comandante. No, vabbè, io pensavo che almeno in due, giusto per farsi compagnia, quindi magari sai come succede, si fa un'ora io, un'ora tu e poi vai avanti. No, oramai no, non è più così. Prima forse erano in due, ma non è più così, perché la gente, lo sai cos'è, c'è carenza di personale a bordo, stanno facendo sempre richiesta, ma oramai i ragazzi non hanno più voglia di navigare, e quindi oramai la guardia, la prima e seconda guardia fanno le guardie da sole, capito? Ah, ecco. Tornando indietro di forse 25 anni, 30 anni che avrei fatto io la domanda. Sei sempre in tempo, La domanda per l'imbarco è sempre quella. Sapete che ti devi fare l'imbarco, farti le visite che ci vogliono. Ti devi fare il corso, magari ce l'hai, un antincendio però sul mare, non antincendio normale. Sì, vabbè, ma sinceramente parlando oggi, tra virgolette, l'età nostra, di magari a viaggiare in nave, ma chi se ne frega? Beh sì, ma se stai bene a terra, sì, chi se ne frega. Però magari c'è qualcuno senza lavoro, che sta ascoltando, c'è carenza di personale sulle navi, sia Tirrenia che Grimaldi, fatevi il libretto d'imbarco e vi imbarcate, che vi chiamano subito, entrate come turno generale, fate un mese e mezzo, due a bordo, e un mese, 15 giorni, 20 giorni a terra, e un mese e mezzo, due mesi a bordo. Vabbè, ma a bordo lo significa? Cioè, praticamente fai, che ne so, sei qua, quanto rimani qua? Per poi ripartire, riparti subito oppure c'è un limite di tempo? Vabbè, se sei in Tirrenia, se fai la linea che non è detto che ti mandino Porto Torres Genova, arrivi la mattina qua, se stai facendo le guardie, che ne so, fai la terza guardia, la terza guardia è da mezzanotte alle 6 del mattino, c'è tutto il giorno libero e poi te ne puoi andare, ti puoi ritornare a casa e rientri prima di montare le guardie, capito? Cioè rientri prima che vada via la nave. Capo. Va bene. Però sai cosa fai quando arrivi a Genova, che insomma hai quel secondo che turno hai la giornata libera, ho capito. Prima montare lì? Non ti credo, non ci sono più soldi di un tempo. Ci sono di un tempo che costano, non sono più. Adesso prendono 1.800, così. 1.800, 2.000 euro, dipende dai straordinari che sono dati dalle guardie oppure da quanto pitturi, capito? Ora io sono fuori da un po', quindi non so come, forse c'è un tot di straordinario gemmo che paga, mi sarà dato così comunque. Vedi, non è da sottovalutare secondo me, perché voglio dire, la gente dice che non trovo personale, ma il personale se non lo paghi, giustamente non ci va. Però già quello è un stipendio abbordabile, è un stipendio buono, se meglio 800 euro fai che uno ha anche, per dire, che adesso due figli, che si prende altre 350 euro dei familiari, quindi voglio dire, vive più che bene, non è che sta raschiando il fondo. Ma infatti, cioè, il problema è che oramai non c'è nessuno che abbia voglia, il discorso lo prendiamo molto con lo stromo, i marinai, non c'è più gente che ha voglia di stare fuori di casa, navigare, capito? Perché molte volte mica ti capita, se ti imbarchi da Sardegna, magari sei di Sassari, tu preferisci fare la linea Porto Torres Genova, o Porto Torres sei a casa. Però molte volte ti spediscono Genova Napoli, Napoli Palermo, insomma, c'è anche la linea della Scandinavia, è un problema, cioè, però quando fai la linea della Scandinavia lì ti piovono i soldi. Non è una bella storia, no, a me è sempre piaciuto, anche addirittura io vado in marina, a parte che ho fatto domanda a Battaglione San Marco, poi purtroppo per mia colpa, per un dente che avevo forato non l'ho curato, non mi hanno preso, direi di essere inutile, ne capito. E purtroppo quel dente lì mi ha fermato con le guardie lì, quindi mi hanno buttato alla Maddalena, Santo Stefano, presunto, no, Maddalena, allora c'era Santo Stefano a fare le MAZ, uno di guardia. Però l'intenzione mia era essere imbarcato. Essere imbarcato perché per vedere, per viaggiare, per buono. Per, insomma, per conoscere un pochino di cose, dai. Però al momento in quegli anni non c'era questa cosa qua, magari. No, vabbè, ma non è mai stato un problema imbarcarsi, eh. Non è mai stato un problema imbarcarsi. Perché ti fai il libretto, vai in capitaneria, ti metti in attesa, in lista, dai, ci ha. Ti chiamano. Sono sempre fatto così, ma fin dagli anni 90, da quando c'ero io. Sono sempre chiamato, perché poi ci sono sempre gli anziani che d'estate come sbarcano, magari sbarcano il primo di agosto, invece di ribarcare il 15, sbarcano, fanno passare, arrivano il 13 di agosto e si mettono in casa marittima, capito? E casa marittima per noi è la malattia. E si fa lo stragosto e metà settembre a casa, capito? Quindi quelle cose loro le calcolano e chiamano la gente che vuole imbarcare così, capito? E la mettono a turno generale. Sì, vabbè, dai, un giro. Le anziane, le vecchie e così via, bello, una cosa che ci sta perché, ed è anche giusto, per carità, perché uno si deve fare le proprie esperienze, i propri anni, tutto quanto, ci sta, ma vabbè, è una tragedia, ormai dobbiamo bucare noi e basta. Una bella esperienza, io ho vissuto una bella esperienza. Sì, ti ripeto, io sinceramente, sapendo una cosa del genere, tornando indietro negli anni l'avrei anche fatta, però con se lo di voi, a saperlo, oramai non fa più, oramai è una cosa che ti sei abituato a fare quello che stai facendo, ci sto bene, quindi grazie a Dio non manca niente. Nel mio piccolo mi sono soddisfatto, quindi anzi, ti ripeto, quando avevo preso il camper, ti ricordi, con il cacchio, però poco, poi invece un giorno o l'altro mi sono andato, beh, adesso ve lo prendo. Sono cose che man mano ci pensi, le fai e io non me ne sono pentito, per carità. Sì, beh, certo che è un problema, abituato a non fare il lavoro, cambiarlo così è un problema. Però ti ripeto, io... Vabbè, a me servivano gli anni in barco, però niente, l'unico problema che si può incontrare è che non sai mai con chi capita in cabina, poi può capitare con quello che si profuma, se prende goccia, lascia il bagno pulito, può capitare con quello che si colica con la tuta da lavoro, di calzone, di garage, invece lascia le scarpe più fortunistiche dentro il bagno, le lascia fuori e ti presta tutta la cabina, solo quello è il problema. Sì, vabbè. Diciamo che è un problema che si può ragionare, nel senso che ci si può parlare, dire, oh, ragazzi, insomma, non siamo neanche animali, quindi se permetti, tra e si può fare, non che vedi la persona che magari si può anche offendere, giustamente. Io ti ripeto, nel militare queste cose le abbiamo affrontate e neanche anche risolte, nel senso che c'era qualcuno che, come ti dicevo tu, si collegava anche con gli anfibi nel letto e non andava bene, quindi glielo dici con le buone, invece così piano piano poi se non la capisce si troverà il modo per farglielo capire, perché effettivamente, ti ripeto, non siamo pecore, quindi... Il problema è che a militare si è incamerata, in navigazione sei tu e lui in cabina, e la convivenza è solo quello, poi il lavoro non è neanche pesante. Certo, ma poi io, voglio dire, se si va d'accordo con le persone, le cose si chiariscono da subito, ecco. Sì, beh, dette tranquillamente, ma so se quello che non capisce, capisce il giorno, capisce il giorno dopo, il terzo giorno è tutto a capo. Andare, vabbè. Che ci vuoi fare oggi? La vita. Luca, VJ, sei entrato, hai fatto un fantasma e sei fuggito. Boh, esci a vedere. Non vale più, Scusati che hanno suonato un attimino, Vai, tranquillo, siamo qua, dai. Sono qua. Bene. E così, via. Beh, ce l'abbiamo fatto, non senti che adesso... È ora di masticare, sono le 8. No, è ora di preparare per masticare, davvero. Io oggi non ho preparato niente, adesso vediamo cosa entrano nel freezer, vediamo cosa esce fuori. Dai, ci vediamo. Vabbè, sì, io ti lascio che è arrivata la gente, è arrivata anche di mia moglie, mi pare vero, ormai non c'è. Vabbè, ci sentiamo. Ma no, è giusto che sia così oggi, dai. Ciao, ci sentiamo nel prossimine, un abbraccio, fammi bene, ciao. Ok, e quando mi senti rispondi, se sei radio, ciao amico mio. Ciao. Hola.